Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino a qualche tempo fa non potevo fare a meno del mio computer per lavorare, della mia Vespa per muovermi e della televisione per distrarmi. Poi nella mia vita è successa una cosa che mi ha cambiato le prospettive e la loro importanza. Ecco, in quel momento lì ho deciso, vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela questa, la vendita è aperta. Oggi vendo un letto. Sin da piccolissimo, appena venuto alla luce ed emesso il primo vagito, ho indossato cose di seconda mano, già appartenute ai miei fratelli maggiori. Dal punto di vista dell'abbigliamento sono sempre stato la discarica della famiglia. Così con gli anni ho sviluppato un senso di accattonaggio nel campo del vestiario. A peggiorare la situazione è stato il mio antico difetto di piacermi sempre e comunque e avere una spropositata considerazione di me stesso. Poi però, senza accorgermene, a poco mi sono aperto al mondo e ho cominciato a guardarmi con occhi esterni, fin quando sono riuscito a migliorare la mia immagine rinnovandola e svecchiandola in maniera considerevole. Ma fino ai 25 anni, gli appunti al mio look e ai miei vestiti erano pane quotidiano. Ai capelli lunghi e alla barba folta aggiungevo nelle occasioni speciali un cappotto scuro, appartenuto a mio nonno. Questo è il pezzo di un racconto che ci ha inviato Domenico Rosa, che è nato, per l'esattezza, l'11 giugno del 1979 a Quadri, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Si è laureato in storia a Firenze, dove vive e lavora. No, città dove attualmente vive, dice, per cui non so, magari può benissimo non lavorare. Desiderio passare una serata all'Enoteca Pinchiorri di Firenze e al termine della cena pernottare nella suite dell'Hotel Savoy della stessa città. Prezzo 4.000 euro. Bene Domenico, mettiamo in archivio. Voi invece continuate a inviare, continuate solo fino a domani alle 16.30, però fortunatamente, dirà la Faggin, perché continuano ad arrivare tutti i giorni e non stiamo dietro a leggerli, ma lunedì decreteremo i 5 finalisti. Dicevo, continuate a inviare i vostri racconti per il concorso Vendo Anch'io, velocemente una pagina di un racconto riguardante un oggetto che volete vendere, un desiderio che volete realizzare e una mini biografia. La mandate tutta l'ensemble avendo tutto @radio24.it. sceglieremo tra gli oltre 60 racconti che sono arrivati 5 finalisti che il 19 di giugno saranno a Riva del Garda insieme a noi con il loro oggetto. Una giuria decreterà il vincitore, gli oggetti verranno messi all'asta e con i soldi dell'asta il vincitore quantomeno cercherà di realizzare il suo desiderio. Se non ce la farà proprio a coprirli tutti, diciamo, sarà un punto di partenza. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 minuti, io sono Matteo Caccia, a Milano c'è una bellissima giornata. Dico sempre così anche se non è vero. È che ce l'ho alle spalle la finestra, cosa ne so se c'è una bella giornata. Quando entro a me sembra sempre bella. Oggi si vende un letto, cioè oggi vendo un letto. Quindi non si può fare a meno, quando si parla di letto, di parlare di abitudini durante la notte. Prima però di parlare di questo, ieri ho scoperto sta roba, che sapete che, come dice la pubblicità, perché c'è un'app praticamente per tutto. C'è un'applicazione dell'iPhone che, se tu te la scarichi, si accende di notte e registra il tuo russare o il tuo russio, per cui credo che funzioni, per cui superati certi decibel semplicemente si aziona, giusto Pietro, un microfono che ti registra il tuo modo di russare. Questa del russare, ecco, del russare io in realtà oggi non vorrei parlare, perché è troppo facile dire che abitudini hai quando dormi, russo, anche se ci sono diversi modi di russare, tipo la russata con l'apnea, quella è quella che mi terrorizza di più. Ho fatto un viaggio in nave una volta con uno che dormiva in questo modo, non lo conoscevo, dormiva in questo modo. Pietro, puoi togliere un attimo la base? C'era così, apnea vuota, per cui silenzio, e tu dicevi, starà morendo. Dopo circa 10 secondi russare con l'apnea, tra l'altro, dovremmo chiedere a Nicoletta Carbone e fare subito essere e benessere, ci direbbe che fa molto male. Non è di questo che vogliamo parlare delle abitudini di cui voi siete consapevoli, perché non si sa mai che cosa si fa di notte, a meno che non vi riprendano, e vi assicuro che non è una cosa carina. A me è capitato, è abbastanza inquietante vedere che cosa fai di notte, perché ti giri, ma Sul profilo Facebook pare che le abitudini siano chiaramente le più svariate. Marta dice: di notte sono un fenomeno, mi alzo, cammino per la stanza, parlo, dico cose senza senso e soprattutto la mattina non mi ricordo di nulla, in compenso un sonno pesantissimo. Maria, lei deve avere sempre lenzuola fresche, soprattutto fresche. PS, per momenti di tempo, se la mattina non ho fatto in tempo a rifare il letto e cambiare lenzuola, sono capace di alzarmi assonnata pure a notte fonda. Cioè, ma vuol farmi credere che lei cambia lenzuola tutti i giorni? Marco: Matteo, dimentica una variante essenziale. Chi dorme con il gatto sulle gambe? Vabbè. Cinzia: io da sola proprio non riesco a dormire. E quando viaggio mi porto il mio cuscino, i miei peluche, altrimenti notte insonna assicurata. 800240024 oppure 349-238-6666. Io oggi vendo un letto. Si parla di abitudini notturne. Ci sono quelli che si alzano in continuazione due o tre volte a notte. Ci sono quelli che parlano e magari se ne accorgono e si svegliano. Invece chi dorme senza un filo di luce, giù tutte le tapparelle. Chi dorme invece solo con la luce? 800240024 349-238-6666. E poi ci saranno delle abitudini assurde che noi non riusciamo ad indagare e abbiamo bisogno di voi per saperle. 800240024 349-238-6666. Io ho scoperto da un'ascoltatrice che si addormenta con la radio accesa che vendo tutto in replica la notte. Cioè, io non lo sapevo e ho scoperto che vendo tutto in replica all'una. È inutile che fai così con la manina, faggine. È in replica all'una e mezzo. Così con la manina, come dire, sì, figurati se non lo sapevo. Fino a una settimana dall'inizio non lo sapevo. Abitudini notturne: 800240024 349-238-6666. Il mio letto, le mie abitudini notturne. Per vederlo, letto radio24.it. Per sentirlo, state qui. Il letto. Letto in legno, dimensioni, lunghezza 211 cm, larghezza 177 cm, altezza pediera 30 cm, altezza testiera 77 cm. Perfetto per dormire o giocare alla zattera. Valore commerciale 159 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it, per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Così come ci si abitua a tutto, è pure possibile disabituarsi ad un'infinità di cose. Però cambiare il modo in cui si è abituati a dormire è molto difficile. C'è chi dorme a pancia in su, chi a pancia in giù. C'è chi ha sempre caldo, chi ha sempre freddo. Chi si agita, chi parla. Chi dorme in posizione fetale, chi di traverso. C'è chi si alza per bere, chi per andare in bagno. Chi va a letto presto, chi invece non si addormenta prima delle due. Chi legge sempre una paginetta. Chi tiene la TV accesa. Chi vuole il buio totale, il silenzio totale. E chi invece preferisce che filtri un po' di luce e qualche rumore. E poi c'è chi dorme da solo e chi in coppia. E credo che questa sia l'abitudine più dura a cambiare. Allora, innanzitutto c'è il passaggio dal letto piccolo a quello grande, che è una sorta di processo di crescita, no? Che ormai viene in maniera quasi casuale. Una volta il letto a due piazze era appannaggio solo di chi si sposava, quindi si passava dal lettino ad una piazza, in singolo, a quella a due piazze, in coppia. Ora invece il letto a due piazze lo si prende quando ci si trasferisce per studio, ad esempio, oppure si passa da una stanza piccola ad una un po' più grande, oppure quando si compra casa. Anche se non si è sposati, se non si è fidanzati, più o meno ormai passati 20 anni, appena si può ci si compra un bel letto matrimoniale. E una volta che hai passato la soglia del letto grande, non torni più indietro. Dormire in un letto grande è un po' come indossare un maglione di cashmere dopo aver indossato sempre maglioni di lana cruda. Oppure condire l'insalata con l'olio extravergine dopo che l'hai fatto solo con l'olio di semi. L'aggravante ulteriore, poi, è quella della solitudine. Cioè, se ci si abitua a dormire da soli, in un letto a due piazze, accettare un'altra persona è quasi sempre un enorme sacrificio. Abituati a sentire uno spazio vuoto intorno a te, no? Davanti, ma anche sulla schiena. Le prime volte che dormi con un'altra persona, è impossibile non percepire la differenza. Se lo senti, le coperte si appoggiano in maniera diversa sul corpo, il materasso c'ha un'inclinazione che prima non aveva. Se allunghi una mano e un piede e senti qualcosa, la sensazione è un po' quella di aver aperto le frontiere a uno straniero che ora si approfitta del tuo spazio. E poi c'è il respiro. Cioè, quanto rumore può fare nel silenzio della notte il respiro di una persona? Non parlo di chi russa, semplicemente qualcuno che respira regolarmente e profondamente. Poi, come dicevo prima, passa il tempo e ci si abitua. Anzi, dormire con qualcuno diventa piacevole, caldo, quasi confortante. E poi anche quell'abitudine è dura da cambiare. Se si dorme fuori per lavoro, ad esempio, o sei obbligato a dormire di nuovo da soli, ecco, quella è un'enorme sofferenza. Si ha freddo, ci si sente abbandonati e soli. Sì, l'abitudine del dormire è quella più dura a morire. Maybe I was born to hold you in these arms. Maybe I was born to hold. Il letto che vendo oggi è quello in cui ho dormito in coppia e poi da solo. L'ho comprato con Giulia quando siamo andati a vivere insieme, perché prima io dormivo su dei materassi per terra. Quindi per certi versi il suo arrivo mi aveva anche voluto, almeno da un punto di vista del letto. E poi c'era un gioco che facevamo, un gioco da coppia, o da bambini forse, il gioco della zattera. Mi spiego, nelle giornate in cui potevamo alzarci tardi, la mattina, soprattutto in inverno, stavamo nel letto sotto al piumone, immaginavamo di essere in mezzo ad un mare in tempesta, o di stare volando nel cielo e che il letto fosse una zattera, l'unico luogo sicuro in cui rimanere rifugiati. Ci sentivamo liberi, anche un po' stupidi, ma soprattutto ci sentivamo al sicuro, contro tutto e contro tutti. Quei 2 metri quadrati di materasso coperti da un piumone erano un luogo in cui non poteva accaderci nulla, perché eravamo coperti e perché eravamo noi due. Adesso in questo letto non ci dormo più, da qualche mese. Un po' perché vendo tutto e quindi ho dovuto trovare degli oggetti che sostituissero temporaneamente quelli che ho venduto. E un po' perché l'ultima volta che ci ho dormito in questo letto ho fatto un sogno che non si capiva bene se era un incubo o cosa, ma era questo qui. Sono nel letto e sto volando su un mare di luce. Non ho mai visto una cosa del genere. Sembra la schiuma luminosa di un mare in tempesta. Passo in mezzo a questa marea che si apre e si richiude attorno al mio letto, come se mi accogliesse. Attraverso il letto guardo giù dall'altra parte. Il mare non è più luminoso. La mia zattera scivola placidamente sull'acqua scura. Io alzo gli occhi e vedo Giulia. È immersa fino al collo nell'acqua e si muove dolcemente. Mi vede e mi indica di seguirla, ma io riesco ad afferrarla e la faccio salire sul letto. Ora stiamo sorvolando la città, che è Milano. Ma potrebbe essere qualsiasi città di notte ed è bellissima. Lei si lascia cadere dal letto e galleggia. Io cerco di afferrarla, ma mi accorgo che lei mi sta tirando verso di sé. E non so come, perché non ha corde. Ma mi sta tirando verso di sé. Poi all'improvviso si stacca e si allontana immergendosi negli abissi della città. Io allungo la mano per fermarla, ma la mano non riesce ad affondare nell'acqua e sbatte contro qualcosa di duro. È il parquet di casa mia. E fa toc, toc. Eppure, nonostante la zattera e gli incubi, questo letto è in vendita. Il suo valore è di 159 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se volete raccontarmi le vostre abitudini notturne, 800-024-0024. Di notte a volte urlo. Ale di Senigallia. Il mio amico dorme con un occhio aperto e uno chiuso per paura dei ladri. Così dice, per la verità, che ha un occhio di vetro. Va bene. Io dormo con 2 gatti sulle gambe, Francesca. E poi il mio preferito, Max da Padova. Quando dormo sul camion, mi sogno che gioco a calcio e batto i rinvii da fondo campo. Pronto, Max? Sì, ciao Matteo. Senti, com'è sta storia? Innanzitutto dormi sul camion perché mi sembra evidente, non perché ti piace, ma perché fai il camionista. Sì. Ok. Quindi ci dormi quante volte a settimana? Un paio più o meno, 2 o 3 notti perché, più o meno. Che tragitti fai? Faccio tutta il nord Italia, Milano, Torino, così. E cosa trasporti, Max? GPL. Ah, GPL, gas altamente infiammabile, quindi. Sì, per il riscaldamento sarebbe. E tu dormi tranquillo con dietro litri e litri di GPL. Non succede niente. Insomma, tu batti in via da fondo campo, giusto? Sì, io gioco a calcio su una squadra amatoriale, così a sabato. Sì. Ogni volta che sono qui sul camion mi sogno sempre di giocare a calcio e sento le gambe che fanno come per battere i rinvii, così, e le sento che si muovono, capito come. Ma scusa, ma i rinvii di fondo campo non li batte il portiere? Io sono un portiere. Ok. Però è una sorta di incubo, perché il portiere gioca con le mani e tu invece ti sei in giocare con i piedi. Forse sei un attaccante mancato. No, sai perché? Perché delle volte mi riescono bene sempre i rinvii. Io non so, forse è il mio è la tua specialità. Senti Max, poi ti saluto, dove sei? Sei sul camion? Adesso sì, sono a Trento, sì. E stai andando verso? Sono fermo, sto andando verso la Padova a casa oggi. Max, allora buon viaggio e buon ritorno a casa. Ciao a te. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Cuneo da Carmen. Pronto Carmen? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno. Sono malaticcia a letto, ascolto sempre la radio. Come mai sei malaticcia? Una roba passeggera? Calcoli, sì, devo essere operata. Ho anche scritto un racconto che vi ho mandato, ma ho dimenticato di mettere il titolo, cretina. Vabbè, non fa niente. No, non darti della cretina così, Carmen, per così poco. Senti, ma calcoli... Tre giorni fa ti ho mandato o sul tavolo o l'Ulisse di Joyce, eccetera. Ok, mi ricordo bene. Senti, ma quindi dolore forte se sei calcoli? Dolori, sì, dolori forti. Va bene, senti, però andiamo a come ti addormenti. Andiamo, sì. No, io ho un'abitudine, non so quanto strana sia, comunque io devo per forza addormentarmi con la televisione, ma non la televisione genericamente, un DVD che deve essere o in inglese o in italiano, necessariamente cretino e necessariamente conosciuto, se no non mi addormento. Vabbè, fammi un esempio allora. Ultimamente ho Nemico Pubblico, quello che però è di Will Smith, and the New Stage. Ultimamente ho quello, la settimana scorsa avevo Six Days, Seven Nights con Harrison Ford. Ok, cambia e ricordiamolo in lingua originale. Sì, va bene. Perché insegniamo inglese. Quindi ti serve. Carmen, sì. Grazie mille, in bocca ma al lupo. Un problema, scusa, ti posso solo dire una cosa. Quando ci sono i DVD che restano accesi tutta la notte, mio marito deve venire in camera mia a spegnere tutto lì. In camera tua perché dormite in camere separate? Sì, perché lui sta tutta la notte al computer, io non ce la faccio. Va bene. Carmen, in bocca al lupo per tutto, direi. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie, presto. A te, ciao. Andiamo a Lucca da niente, basta. Un'ultima. Riccardo da Lucca, pronto? Ciao, buon pomeriggio. Ciao, anche a te. Andiamo subito al punto, ti spiace, sì, Riccardo? Certo, la mia ragazza è incredibile. Anche oggi con 33 gradi, io me la vedo già stanotte nel letto, tutta piena di calzettoni, pigiama di lana, piumone, copriletto di lana, una cosa allucinante. Ma anche in estate, sì, adesso, luglio? Sì, ma stai scherzando, sempre fissa. No. E la cosa spaventosa, lo sai qual è? Qual è? Che mi dice, ma te ti allontani la notte. No, stacci te vicino a una che in Mariana Campanile con 33 gradi, questa si mette tutta di lana. Ma come si fa? È impossibile. Emana un calore, è incredibile. Non ti faccio domande sulla vostra vita sessuale. Ecco, bravo, salta. Va bene. Ciao Riccardo, grazie mille. Ciao, Mimico, alla prossima. Ciao. Io la notte tampino mio marito. L'amore, Elena. Elena, grazie a Laura, Tiziano, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Letto sul sito, domani invece vendo giustamente il materasso. Se voi di notte fate dei sogni, dimenticatevi che alla fine un sogno è solo un sogno. Love, love, love, love.